Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ho fatto questa mattina un esperimento, come spesso faccio. Ho scritto nel profilo Facebook, attraverso cui mi seguono gli ascoltatori, oggi parlo di anarchici. Già ho 5-6 persone che mi dicono, ah, benvenuto, vieni a casa mia, io conosco l'anarchia. Sul termine anarchico ci troviamo tutti d'accordo che in cuor nostro a tutti piacerebbe di sentirci dire che siamo anarchici, perché l'essere anarchico significa avere la splendida vertigine di non avere padroni, di non avere Dio, di non avere leggi se non quelle nostre interiori, e di avere un senso di splendida ribellione verso il mondo, le sue regole, le sue leggi. L'anarchico potrebbe vivere in un felice mondo utopico. Nelle sue accezioni e ricadute storiche ci sono varie letture dell'essere anarchico, dalla lettura più romantica, una iconografia che appartiene ormai a un passato ottocentesco, andando poi avanti nel tempo, l'anarchico come oppositore numero uno del regime, andando avanti o indietro o fermandosi, l'anarchico rappresentato sempre con la bomba in mano, con il pugnale, l'anarchico che fa gli attentati, l'anarchico che uccide i tiranni, l'anarchico che si fa mano armata del diritto di tirannicidio da parte dell'essere umano. Poi la versione contemporanea, moderna, cui la parola anarchico è stata aggiunta l'accezione insurrezionalista. Quindi è qualcosa di diverso, qualcosa di non definito, qualcosa che da un certo senso appartiene a un nostro romantico ricordo che sembra appartenere ad antiche e dagherotipiche nostre memorie storiche e romantiche, e l'altra qualcosa che in realtà appartiene alla nostra contemporaneità, alla cronaca di questi giorni, ai momenti più crudi della nostra storia, come se già non bastassero i momenti difficili che stiamo attraversando. Beh, questa mattina vorrei, se possibile, dare l'idea di quello che potrebbe essere inquadrato in una più precisa denominazione. Cosa significa per voi essere anarchico? Che idea avete, se vi dico, un anarchico? Come ve lo immaginate l'anarchico? E quando sentite notizie o leggete notizie tipo l'attentato da Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, gambizzato a Genova, e quando si sa che questo attentato è stato rivendicato da un gruppo anarchico, quando nei telegiornali si vede la bandiera di questo gruppo anarchico, tante frecce concentriche con una stella, e si capisce che questo è il nucleo Olga della Federazione Anarchica Informale, che domande vi fate? Come vi siete risposti? 800 24 00 24. 7 maggio, 8:30 del mattino, un colpo di pistola, bruciapelo e il manager stramazza a terra. È Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, società dai conti in utile, senza problemi di recessione né prospettive buie per i suoi dipendenti. Adinolfi resta ferito alla gamba destra, doveva morire? Non è chiaro. È stato colpito un simbolo? Probabilissimo. L'hanno aspettato all'uscita di casa, in via Montello, a Genova, quartiere Marassi. L'agguato viene messo a segno da due persone a bordo di uno scooter con il viso coperto dai caschi. Uno dei due spara 3 volte, ma solo un proiettile spedisce all'ospedale, con codice giallo, il manager di 59 anni, sposato con 3 figli. 800 24 00 24. Capisco che in questo momento non è centrale nell'attenzione pubblica il problema della lotta armata, delle frange estremiste, degli attentati. Si confondono molte volte le notizie nel grande insieme di notizie spaventose, dal terremoto ai problemi di tipo economico-finanziario, all'infinità di altre preoccupanti notizie. In fondo uno dice, beh, saranno gli anarchici, saranno i soti, poi non colpiscono me, colpiscono sempre le stesse persone. Ma è realmente così? Siete convinti che non esista un pericolo, non esista un grado di attenzione, non esista un livello di attenzione da tenere? Ma soprattutto, siete correttamente informati su cosa significhi oggi appartenere a un gruppo anarchico? 800 24 00 24. Questa mattina verso le 11 è arrivata una busta alla segreteria di redazione del Corriere della Sera, e normalmente è stata aperta come tutte le altre buste, e quando si è aperto subito nel frontespizio si è capito che c'era una rivendicazione, perché era firmata Olga. La tanto attesa e al tempo stesso temuta rivendicazione alla fine è arrivata. 4 fogli recapitati in una busta proveniente da Genova, che segnano il salto di qualità annunciato mesi addietro dal FAI, la Federazione Anarchica Informale. Non più petardi, fiori o qualche candelotto da far scoppiare, come in passato all'Università Bocconi di Milano, piuttosto che davanti a una sede di Equitalia o a un centro di identificazione ed espulsione. Atti dimostrativi studiati in orari e con modalità tali da far rumore, ma solo qualche danno. Ora, invece, si prendono di mira le persone, le si studiano e poi le si gambizzano. Non ci hanno messo molto gli investigatori del ROS a capire che la rivendicazione era attendibile e col passare delle ore... Buongiorno, avvocato Giulio Vasaturo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. L'avvocato Vasaturo è un criminologo, è studioso dei gruppi lotta armata. Ultimamente abbiamo letto di lei interviste e dichiarazioni sulla lettura di questo fenomeno più recente, quello che le cronache riportano in questi giorni, di cui abbiamo dato qualche assaggio con le clip prese appunto dal TG di Sky. Lei che idea si è fatta e soprattutto è possibile stabilire un nesso con l'immagine romantica e antiquata dell'anarchico con questi gruppi che si firmano Nucleo Olga, pubblicano questi volantini con questi simboli che non avevamo mai visto? Ma guardi, ammesso e non concesso che esista in qualche modo un'immagine romantica di un anarchismo che può anche manifestarsi, come talvolta è stato in passato, in forma violenta, beh, io penso che gli anarchici e insurrezionalisti che hanno colpito al Genova hanno voluto tracciare loro stessi un solco ben definito e forse insanabile con il resto del movimento anarchico. Ecco, perché si chiamano ancora anarchici secondo lei? Usano questo termine che è così antiquato, l'anarchico? No, antiquato no, nel senso che l'anarchismo costituisce tuttora e rimane un fenomeno di grande attualità in Europa. Nella loro dimensione internazionale, in verità, forse mai come oggi, se guardiamo agli ultimi decenni, noi troviamo un ritorno di grande attualità del movimento anarchico attraverso le sue diverse espressioni. Lo riconosciamo in alcune grandi lotte anche sociali, in alcune forme di mobilitazione che sono avvenute in Italia negli ultimi anni e che hanno avuto, purtroppo devo dire, non certo per colpa della gran parte di questi movimenti che sono movimenti pacifici, ma proprio a causa di alcune componenti, di alcune frange anche isolate all'interno dello stesso movimento anarchico, beh, hanno avuto degli esiti di violenza. Io basta risalire dal G8 del 2001 sino ai fatti di Roma del 15 ottobre del 2011, le tensioni in Val di Susa che si sono registrate ancora più recentemente e da ultimo per l'appunto l'attentato all'ingegnere Adinolfi, per passare poi per la serie di pacchi bomba che negli anni sono stati spediti più volte sia a sedi diplomatiche che a figure di vertice dei nostri apparati di governo. A Equitalia, agli ultimi attentati a Equitalia. Quindi lei, diciamo, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, se non ho capito male, prova a interpretare, dice c'è un movimento a vasto raggio che sono gli anarchici a livello europeo, sarebbero i cosiddetti anarchici insurrezionalisti, quelli che vengono chiamati così, che in linea di massa è un movimento di massa, un movimento con una base ideologica di giustizia sociale e via dicendo, che però non riescono al loro interno a contenere le cosiddette frange estremiste, che è sempre stato una soluzione molto di comodo, diciamo la verità, di dire ci sono le frange estremiste, però il movimento è quello e le persone si muovono dentro quel movimento. Guardi, parlare di un movimento dando l'impressione che esista una struttura organizzata unitaria con riguardo al movimento anarchico è forse a priori improprio, posto che l'anarchismo di per sé non concepisce una gerarchia, quindi un sistema, come dire, di regole imposte da un'autorità superiore, per cui figuriamoci se noi possiamo pensare... Ma come si organizza una mobilitazione di massa, come si muovono persone a tutta Europa per farle convergere in un posto per far casino se non c'è un'organizzazione all'interno? Perché c'è un'organizzazione in un certo qual modo che è per l'appunto informale, non gerarchica, e questo è il tratto di distinzione e l'elemento, se vogliamo, di novità su cui noi analisti ci interroghiamo. C'è una mobilizzazione che si radicalizza attorno ad alcuni social network e ad una rete di contatti, guardate, che è, se vogliamo, molto arcaica, che anzi spesso prescinde dallo strumento informatico, quindi dallo scambio di mail, dai blog, per transitare attraverso veicoli diretti di contatti fra singoli esponenti di riferimento di questo movimento. Quindi mi sembra aver capito che l'avvento del web, dell'uso soprattutto dei social media, ha creato questa struttura che manca in un movimento che per sé si definisce anarchico e permette dei collegamenti, seppur in maniera piuttosto destrutturata, e fa sì che le persone si possano spostare. Sentiamo qualche ascoltatore, perché stranamente non avrei mai detto, questa trasmissione sta suscitando grande interesse. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io mi riferisco sempre al discorso dell'anarchismo come un fenomeno che ha moltissime facce. Il quadro della violenza penso che sia la meno importante, la meno... Lei si reputa anarchico, Fabio? Sì, sì. Ma un anarchico, cioè, è scritto alla federazione... Non violento, assolutamente non violento, anzi abborro la violenza, e penso proprio che sia una frangia estrema che non ha poco a che fare con l'anarchismo vero. Quindi, diciamo, voi anarchici tradizionali, questo movimento anarco-insurrezionalista non lo considerate una vostra filiazione ideologica? È un po' eccessivo di parlare di filiazione. Proprio in quanto anarchici riteniamo che ciascuno debba comportarsi secondo i propri principi e le proprie idee. Di conseguenza non penso di essere in grado di condannare né di assolvere. Beh, condannare chi spara addosso alla gente, se sicuramente permette. Certo, sì, no, ma sono le motivazioni filosofiche che stanno alla base. Sì, non è ammazzare un tiranno, sparare un amministratore delegato davanti per strada. Va bene, chiaro. Sandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei è anche anarchico? Ma assolutamente. Sì o no? Assolutamente sì o no? No, assolutamente. Vabbè, mica è un'offesa. Li vedo soltanto come dei grandi buffoni. Vabbè, quali anarchici proprio? Mi vede, stiamo differenziandoli. Eh sì, li puoi differenziare quanto vuole, ma anarchia significa senza comando. E oggi senza comando non esiste. Ci sono comunque sì al mondo dominati e dominanti, o no, mi sbaglio? Sì, ma uno comunque potrebbe avere anche l'aspirazione interiore di non averci... Ma tutti hanno questa aspirazione, la fuga è un'aspirazione. No, mica è un delitto coltivare utopie. A me mi piacerebbe pensarmi anarchico, che nessuno dovesse comandarmi. Per me più belle sono le utopie, invece quelle artistiche, la creatività, l'arte, la musica. Ma di al diritto a una persona, se vuole dire che sono anarchico, di poter dire sono anarchico. Anarchico non significa niente. La parola di per sé, oggi al mondo come sta messa adesso, è impossibile. Che significa anarchista? Senza chi? Senza che cosa? Chi si comanda? Se mi serve il pane non devo andare da panettiere. Che significa anarchia? Vabbè, penso sia un pochino più elaborato. L'anarchico in realtà è una persona che... Vogliamolo quanto vogliamo, Nicoletti. Sì, sì, però... Io non dico che lo condivido, dico però ammetto che sia lecito che uno se vuole può pensare... Come dire, un escamotage per vivere un po' così alla frufru. Beh, ma scusa, ecco, ma allora anche un mistico che si mette sotto una pianta e medita è fuori del mondo. Non ci sono dubbi, anche quello è un povero pazzo. Ma può dare il diritto ai poveri... per vivere. Vabbè, ma può dare il diritto di esistenza ai poveri pazzi. Come no, assolutamente. Vabbè, ne vedo tanti di pazzi. Vabbè, ha espresso il suo pensiero, come vede. Luciano Lanza, buongiorno. Buongiorno. Fondatore di A, Rivista Anarchica. Tra i fondatori. Leggo la scheda veloce che mi è stata scritta sulla sua telefonata. Mi fa piacere che la intervenga, quindi magari può dare un punto un pochino più elaborato rispetto, diciamo, a quelli di chi non conosce. Le cose che ho sentito non le stiamo a commentare. No, le commenti. Ma no, perché no? Vabbè, l'ultimo signore, vabbè, folcloristico. Vabbè, ognuno... Cioè, l'anarchia è un pensiero che si sviluppa a partire dalla fine del Settecento all'Ottocento, che propone un modello di società diversa dove il potere non è abolito ma è distribuito tra tutti e quindi in pratica viene dissolto tra la gente. Ma questo allora... C'è un solido pensiero filosofico, c'è una scuola di pensiero. Infatti il signore tagliava con l'accetta, era una rozza maniera... Lasciamo perdere. Di esprimere l'umarellismo come condizione di vita. Proprio su A, Rivista Anarchica... Ecco, lei ha scritto un libro, Bombe e Segreti, quindi diciamo... Sì. Piazza Fontana. È un po' l'evento che ha segnato la mia vita, perché io ero nel gruppo con Giuseppe Pinelli, quindi insomma, allora ero giovane. Vi siete sentiti al centro di un'attenzione che era abbastanza singolare, perlomeno in quegli anni. Gli anarchici uscirono improvvisamente fuori come i responsabili delle bombe, che poi a tutti furono attribuite meno che agli anarchici. Certo, sì, poi questo accanimento, vabbè. Però parliamo, allora, adesso mi interessa, parliamo dell'attualità. Il nostro analista in studio, informale, la Federazione Anarchica Informale, sono personaggi che ovviamente giocano su la similitudine della sigla Federazione Anarchica Italiana, no? E infatti su A Rivista Anarchica, il mensile che abbiamo fondato nel 71, siamo usciti con questo editoriale che poi ho rilanciato anche sul Fatto Quotidiano. Quindi voi non li considerate facente parte, diciamo, della vostra area di pensiero? A me questo termine... No, non area di pensiero, ma proprio non area, cioè anche perché poi il discorso, se si definissero in altro modo, facciano tutte le sciocchezze che vogliono, riprovevoli dal mio punto di vista. Ma non si devono chiamare anarchici, questo vuol dire? No, soprattutto Federazione Anarchica Informale. Ma cioè, informale è un termine, sa tanto di situazionismo, informale, cosa, certo, vuol dire informale? Certo, certo, si ricollegano situazionisti e soprattutto si ricollegano a... I situazionisti non hanno mai sparato addosso alla gente? No, si riferisce, si... fanno riferimento poi a gruppi che alla fine negli anni Ottanta, dopo così, si sono formati in risposta... Siccome mi interessa... Scusa, fammi finire. Sì, ma gli anni Ottanta che gruppi sono? Solo per capire... Dico, questi gruppi che si chiamavano ancora Federazione Anarchica Informale partono dagli anni Ottanta, alla fine degli anni Settanta. E per col mito dell'azione diretta, cioè il facciamoci giustizia, questo e quest'altro, soprattutto così rifacendosi a esperienze storiche, penso alla fine del secolo scorso a Parigi o in Francia, così, che non hanno valenza nella società attuale. Allora, il tipo di discorso che bisogna fare su questi è che utilizzano in maniera impropria, io non mi sento di dare scomuniche o meno. Ma però fa prendere le distanze, mi sembra logico. No, non prendo le distanze, prendo delle distanze enormi, enormi, perché questo tipo di violenza, il loro uso della violenza fisica e verbale, è quello che allontana tutta la gente normale o chi potrebbe avere simpatie per l'anarchismo o che potrebbe propendere per l'anarchismo, li allontana perché queste azioni che poi non risolvono nulla. Cioè, quando Gaetano Bresci vendica i morti di Milano di Bava Beccari... Vabbè, è un altro contesto. Siamo in un altro contesto e poi... uccide una persona e soprattutto, questa è l'etica, a volto scoperto e si fa prendere. Sì, questo era classico, l'anarco non sfuggiva, l'anarco poi doveva essere martire e testimone del suo gesto, è chiaro. Sì, ecco, sì. Questi invece sono dei poveretti, un po' minchioni, usiamo il termine, che pensano di chissà innescare quali processi di rivolta in tutta la popolazione e poi non hanno neanche il coraggio di mostrarsi. Allora, fermiamoci un attimo, Giulio Vasatura, sentito, abbiamo avuto una telefonata di un rappresentante ufficiale della rivista anarchica che ha fatto un suo distingo. Commenta lei questa sua dichiarazione? Dice, sono un po' minchioni questi anarchici, poco hanno a che fare con noi. Ma guardi, io credo che anche questo intervento ci dà il tratto di un confronto che è vivo evidentemente all'interno di un'area rispetto alla quale evidentemente nessuno dei nostri referenti può poi tracciare i confini. Allora, se noi leggiamo lo stesso documento di rivendicazione del gruppo che ha commesso l'attentato all'ingegnere Di Norsi, ebbene leggiamo una critica probabilmente rivolta anche al nostro cortese interlocutore della rivista anarchica, in cui questo gruppo e gli altri gruppi, diciamo, che ovviamente portano avanti le loro istanze nell'alveo della democrazia, vengono tacciati di anarchismo sociale, di cittadinismo. Vi sono altre riviste, sicuramente il nostro interlocutore le riconoscerà, io ho letto delle pagine sferzante, ad esempio su un'altra rivista anarchica che si chiama Macete, forse anche l'interlocutore vorrà intervenire su questo punto, in cui la critica rispetto ad una mobilitazione non violenta da parte di alcune frange che si autoqualificano come anarco-insurrezionalisti è particolarmente inquietante. E allora vorrei quasi, se lei me lo consente, direttore, rivolgere io una domanda al cofondatore della rivista anarchica, ed è questa, cioè cosa ne pensa delle tesi del cattivo maestro, di quello che noi analisti consideriamo il cattivo maestro dell'anarchismo violento, che è Alfredo Maria Bonanno, che in alcuni testi già risalenti agli anni 70, penso alla Gioia Armata, che comincia con un incipit dedicato proprio all'apologia della gambizzazione del giornalista Indro Montanelli, lo ricorderà l'episodio. Sì, un'immagine anche tristissima, Montanelli, un signore seduto, gambizzato. Il gesto di violenza riguardo i Montanelli viene celebrato con lo stesso sensazionalismo, la stessa carica emotiva che noi troviamo nel documento di rivendicazione dell'attentato all'ingegnera di Nolfi. Lei pensa che il giorno dopo il Corriere della Sera, che era il suo giornale, nemmeno lo scrisse? Scrisse un giornalista, è stato gabbizzato. Fa capire qual era il clima di quei tempi. Il gruppo che ha rivendicato l'attentato al dirigente dell'Ansaldo Roberto Adinolfi ha utilizzato la stessa sigla CCF, il nome Olga, in onore del leader ellenico che il giorno prima dell'attentato è stata trasferita dal carcere di Tebe in Boezia. La sede di Equitalia in centro a Livorno, finita sotto attacco nella notte fra venerdì e sabato, l'ipotesi degli investigatori, Digos e Carabinieri del ROS, è che la matrice dell'attentato sia narco-antagonista e che questo ennesimo attacco a Equitalia non abbia nulla a che vedere con l'attentato di Genova a Roberto Adinolfi. Piuttosto sembra ricordare... Ecco, adesso uscita anche una nuova sigla, anarco-antagonista. Vedete, al termine anarco vengono aggiunte una varia gamma di specifiche per prendere le distanze o per seguire comunque un filo conduttore unico. Stiamo parlando questa mattina di anarchici, di anarchismo, di nuove forme di anarchismo o di chiave eterna che giace sempre sotto la cenere dell'idea anarchica, è quella della violenza, dell'insurrezione, dell'omicidio simbolico e dell'attentato che faccia capire, comprenda, richiami attenzione. Abbiamo in studio l'avvocato Giulio Vasaturo, che è un criminologo studioso di gruppi lotta armata, che ha rivolto una domanda a Luciano Lanz, che ci ha telefonato, che è un cofondatore della rivista Anarca, e dice, sintetizzo, poi mi corregga Vasaturo se sbaglio, dice sì, voi prendete le distanze, fate gli anarchici buoni, ma in realtà se andate un attimo a grattare nelle radici della vostra cultura, letteratura, ma anche tanto lontana, citato Alfredo Maria Bonanno, che è uno dei maggiori teorici dell'anarchismo insurrezionalista, che ha scritto questo libro La Gioia Armata, dice, scrive frasi come quelle, ma perché questi ragazzi sparano le gambe di Montanelli, non sarebbe meglio sparargli in bocca. Luciano Lanza. Sì, però Alfredo Maria Bonanno, personaggio che ho conosciuto e che ha scritto anche molto contro di me, ha raccolto tempo fa attorno a sé giovani, come chiamare, tra virgolette, esaltati, che questo mito della lotta armata, questo mito che poi non era solo nel movimento anarchico, ma direi se pensiamo a Brigate Rosse e altre formazioni comuniste, dico, ne hanno fatte di molto peggio. Sì, no? Sì, ma il peggio c'è sempre, i discorsi, ma questa dobbiamo capire esattamente cosa c'è di diretta filiazione, di tradizione storica, cosa c'è, diciamo, di accrescimento data dalle logiche dei tempi, dalla logica del web, dall'escalation della violenza, solo questo. Però, allora, se vogliamo prendere le radici, ci sono momenti di particolare disagio, di grande conflitto sociale e di grande sfruttamento economico e sociale, in cui ci sono personaggi che Émile Henry, Ravachol o gente come questa, che pensano di essere i vendicatori del popolo. Ora, anche Beppe Grillo lo fa, ma mica dice sparate addosso alla gente, ecco. Lasciamo perdere Beppe Grillo, è una realtà. Non facciamo discorsi No, ma guarda, scusi, è esattamente lì anche lo dice lei, nei momenti di grande disagio, di grande confusione, e diciamolo chiaramente, di vacatio legis, perché così è, che in questo momento non si capisce bene, i partiti non hanno più nessun peso, nessun valore, starnazzano ormai come anatre nello stagno, il governo tecnico è qualcosa che è di poco definibile comunque, le persone non hanno solamente un'idea precisa, una guida, e questo sono in preda a qualunque idea forte, a qualunque idea di rivolta, di insurrezione. Non trovo così, non giustificherei se no il successo. Il fenomeno Grillo è un altro discorso. Sì, sì, vabbè. Allora, continuiamo su dove mi è interrotto. Allora, glielo dico in altre parole: la gente è talmente incazzata che chiunque cavalca l'incazzatura della gente può far fare qualunque cosa, può giustificare qualsiasi azione. Sparare una persona potrebbe essere, come spesso accade, anche qualcosa che sotto sotto richiama consenso. Questa è la cosa che sto cercando di dire, secondo me, in questo momento. In altri momenti sarebbe la gente scenderebbe in piazza indignata. Oggi dico, sai, alla fine, fra tanti problemi, qualcuno finalmente gliela fa sentire. Sbagliando, errando. Sì, un momento, ma una cosa è scendere in piazza indignati e fare un'azione collettiva di massa o mini massa, quello che si vuole, per contestare quello che sta succedendo. Sì, però quando si spaccano le vetrine e le macchine di un quartiere, quando si spaccano vetrine e si incendiano automobili, come è accaduto a Roma tempo fa, la lettura generale dell'uomo comune è dire, non è esattamente quello che volevamo, perché ognuno si sente padrone dell'automobile incendiata, la vetrina rotta, la vecchia spaventata, del bambino terrorizzato e via dicendo. Non sono operazioni che giovano all'idea generale di un movimento, secondo me. Sto parlando di quello, capisci? Il discorso che sto facendo è che in situazioni particolari, se c'è una situazione che si generalizza e che oppone la sua forza a quella dello Stato o di chi chiamiamoli i padroni, cioè per esempio c'è un esempio classico, grande, no? 1936 in Spagna. Francisco Franco fa il golpe, la CNT e la FAI, Federazione Anarchista Iberica, si mobilitano e fermano il golpe. Queste sono le cose che si fanno. Ma perché? Cosa c'era dietro? C'era dietro un secolo di attività, di comunità, di luoghi, di lavoro sindacale. Queste sono le cose che servono. E nel momento la guerra in Spagna, però se mi interrompi continuamente. Sì, cazzo, però non ti posso mica lasciare tutto il tempo. Io sono vecchio. Sì, però datti una mossa perché finisci un discorso, però, perché non posso darti tutto il tempo. Questo vuol dire. Chiudi. Però sì. Se mi interrompi non lo finiamo dai, più. Finiamolo, se no ti interrompo per sempre, scusa. Vabbè, interrompimi per sempre. Allora, se ne fai, fanno questo discorso e quella è il tipo di risposta che si dà. Ok, tu mi fai sempre esempi del passato. La guerra in Spagna è stata una cosa fantastica, tutto il mondo mobilitato sull'idea forte. Qua è un'altra situazione, è un'altra cosa. E se ti ha fatto una domanda molto precisa, dice non vi sentite in parte anche voi responsabili di quello che avete seminato quando qualcuno raccoglie l'idea e poi la mette in atto? Tu mi dici no, fine, mi sembra che il discorso possa essere concluso. Se hai altro da dire, dillo, perché non voglio dare l'impressione che voglia censurare. No, poi non mi sembra che siamo al livello di quello che dici tu, cioè non è che abbiamo seminato questo, abbiamo seminato tutt'altro. E poi per quanto riguarda allora la mia storia personale, quello che ha seminato lo Stato, e io che ero nel gruppo con Giuseppe Pinelli, scusa, e io avevo poco più di 20 anni, sono cose che ti segnano la vita e ti fanno vedere invece la violenza e la brutalità dello Stato criminale. Allora sì, questo sì lo vedi. È logico, però sono vicende su cui ormai la storia è in parte, dico in parte perché non c'è mai una chiusura, generalmente la società civile ha fatto un suo pensiero, ha espresso una sua idea in maniera sempre del tutto aleatoria, perché ti basti il fatto che esce un film e su Piazza Fontana e si riapre nuovamente tutta una polemica, quindi non siamo nemmeno capaci di raccontare la nostra storia recente. Comunque, grazie Luciano Lanza, passiamo al professor Gianmario Bravo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Finalmente una voce ci serve storicamente corroborante, professore emerito in storia del pensiero politico all'Università di Torino. Come vede, non riusciamo ancora a definire esattamente quali siano le radici culturali e ispiratrici anche di atti di violenza che appartengono al movimento anarco. Lei può aiutarci, professore? Ma, non so se posso aiutare lei e gli altri interlocutori della sua trasmissione. È certo che sotto il termine anarchia si cedono le cose più diverse. Ho sentito citare Bonanno, che non conosco personalmente, ma che nel 1996 aveva organizzato un celebre allora convegno internazionale antiautoritario insurrezionale, e poi vado a vedere su internet il sito del FAI, Federazione Anarchica Italiana, oppure la Federazione Anarchica Internazionale, vedo delle persone assolutamente pacifiste, tranquille, che sono contro lo Stato, che sono per la distruzione dello Stato, ma la distruzione politica dello Stato, anche se rifiutano la politica, e sono soprattutto si esprimono contro coloro che attentano sia alle vite umane, caso Adinolfi, poi prendono posizione sulla questione di Bari, su di Brindisi, scusi, sì. Recente, anche se lì non è venuto fuori. Ma secondo lei, professore, è una posizione sincera questa o lievemente furbastra? No, no, è sincera. I gruppi, a mio giudizio, io do un giudizio spassionato. È un giudizio illuminato, per questo lo chiamo. Stato storico dell'anarchia, ho sempre condannato lo spirito dell'anarchia, si è rapportato al mondo del socialismo, però gli anarchici tendenzialmente sono stati collettivisti, comunitari, cooperativisti, antagonisti, ci furono gli anarchici educazionisti e poi naturalmente ci furono gli anarchici individualisti, coloro che operavano, credevano di poter dare l'esempio operando con la propaganda del fatto, vedi i tentativi di assassinio in Italia di Umberto I, di celebre passanante, poi di Bresci che c'era uscito, assassinò il re, vedi tutti gli assassini politici in Francia. In però lei, professore, come abbiamo detto prima, questi anarchici prestavano il petto poi anche alla rivendicazione dello Stato. Bresci ha ucciso il re, ma si anche non si è tirato indietro di fronte al fatto poi di pagarne naturalmente il prezzo. Bresci anzi fu un personaggio verosimilmente un esaltato, si può condannare dal punto di vista morale, ma certamente era un personaggio integro. Gli insurrezionalisti di cui si parla oggi, a mio giudizio, non c'entrano niente. Gli insurrezionalisti sono stati invitati dal mondo della repressione internazionale e alcuni. Anzi, Bresci addirittura si è impiccato in carcere, cioè era condannato all'ergastolo, si è impiccato. Io non so, adesso questa federazione anarchica insurrezionalista, o come si chiama, insurrezionale, mi pare informale, mi sa tanto di provocazione. Ci sono dei gruppi che non sono affatto anarchici, perché sono ultra organizzati. Gli anarchici tradizionalmente hanno un'organizzazione molto flebile, un'organizzazione spontanea, anzi furono e sono teoricamente contro l'organizzazione, sia l'organizzazione politica, sia l'organizzazione dello Stato, sia l'organizzazione finanziaria. Questi insurrezionalisti sarebbero invece degli ultra organizzati. Va bene che nel mondo anarchico ci furono tante contraddizioni, anche i grandi teorici anarchici furono contraddittori di per se stessi, da Bakunin in avanti, ma tendenzialmente l'anarchismo fu un movimento pacifista, un movimento comunitario, un movimento che mirava alla cooperazione fra gli individui, all'amore fra gli individui, l'amore lo dico con la maiuscola, insomma, è un termine che usano spesso, che usò spesso il movimento anarchico. Giulio Vasaturo. Noi ci stiamo interrogando, io credo anche in maniera utile in questa trasmissione, sull'album di famiglia, come diceva Rossana Rossanda, della violenza di oggi, chiaramente. Cioè, la mia provocazione anche al cofondatore della rivista Anarchica prima era rivolta proprio a capire se nella sua percezione i responsabili dell'attentato ad Adinolfi fossero da considerare come compagni che sbagliano, come si diceva una volta. volta. Però mi sembra che abbia preso molto le distanze, più di così. Infatti l'ho apprezzato molto questo l'ho apprezzato molto e bisogna dargliene atto. Però io credo che per quanto sia ineccepibile il ragionamento ovviamente portato avanti dal professor Bravo, credo però che la sua trasmissione si confronta con la realtà, no? Certo. Allora noi abbiamo un dato di realtà evidente, cioè che c'è un gruppo più o meno organizzato, questo lo stiamo valutando anche noi analisti, lo stanno facendo gli inquirenti, che però è stato in grado di portare avanti anzitutto una inchiesta, come si diceva una volta, cioè un monitoraggio attento della vittima, commettere un'azione criminale particolarmente grave, qual è l'attentato che è stato commesso a Genova, e rivendicarla con un documento che comunque pone dei contenuti su cui noi analisti ci stiamo interrogando, che segna. Quindi secondo lei è quello che si dice un gruppo di fuoco organizzato. Le faccio solo una piccola eccezione: il fatto che sia stata usata un'arma molto antiquata, molto poco efficace, con rischio che non potesse avere, diciamo, un effetto, non stride un po' l'idea dell'organizzazione che ha delle basi solide? Dal punto di vista balistico, francamente quella è un'arma antiquata con tutti i problemi che comportano le armi un po' obsolete, che però è nota proprio per la sua capacità, come dire, di fuoco. Cioè un killer della camorra non userebbe mai una pistola del tipo per compiere un'operazione, un lavoro che deve essere efficace. Perché probabilmente anche quella scelta dell'arma significa qualcosa dal punto di vista simbolico su cui noi evidentemente ci stiamo interrogando. Vede, io vorrei però porre anche un'altra osservazione. No, scusi, le dispiace che sono un po' fissate queste cose. L'idea che mi ero fatto io, che sia quasi una sorta, come i primi brigatisti si facevano dare le armi dai partigiani che erano convinti che la resistenza doveva continuare, i primi attentanti non a caso vengono fatti con le armi della seconda guerra mondiale, perché glieli davano i loro zii, i loro nonni partigiani. C'è un senso anche questo, cioè noi siamo figli di una tradizione antica, di un socialismo reale, di qualcosa che ha a che fare con un mondo passato, e quindi siamo la chiave di connessione con quel mondo? Anch'io condivido questa analisi e le aggiungo qualcosa in più. Noi oggi in questa trasmissione siamo rivolti molto, forse troppo, nell'analisi rispetto al passato. In verità il collegamento di questo gruppo non è solo rispetto al passato, ma forse anche, ancor più, rispetto a una dimensione internazionale che spesso noi analisti, e mi consente, anche i giornalisti italiani spesso non hanno, cioè interpretano i fenomeni, anche questi terroristici su cui ci troviamo a dibattere, in una visione un po' provinciale. In verità gli anarchici che hanno compiuto l'attentato a Genova, come per la verità il movimento anarchico in generale, ha una forte proiezione e dimensione internazionale. E allora, ad esempio, il legame con la Grecia, visto che la Grecia è in questo momento è lo stato più sotto schiaffo della crisi, diciamo, europea, internazionale, via dicendo, visto che il Bodanni che ha citato lei prima, ma tutta una serie di anarchici, sembra abbiano legami molto stretti con la Grecia. Quando ci fu l'attentato a Brindisi, disse vabbè, perché è sulla rotta di vicinanza con la Grecia dove si muovono gli anarchici. Questo è accertabile dai vostri punti di vista? Esattamente, la rotta è un asse che collega Spagna, Italia, Grecia, con delle proiezioni anche in Corsica, in Francia e in altre realtà. Ma su questa traiettoria Spagna, Italia e Grecia, a nostro avviso si sta muovendo e animando un fronte che noi non possiamo e non dobbiamo fare l'errore di minimizzare. Allora, fermiamoci solo un secondo. Do la conclusione al professor Gianmario Bravo. Ha sentito, lei resta dell'idea che comunque sia una forzatura o pensa questa internazionalità, questo movimento, risponda a qualcosa a che fare con l'anarchismo tradizionale? Io credo che, nonostante appunto la realtà dell'internazionalismo, dell'internazionalità dell'anarchismo, l'anarchia e l'anarchismo siano tutt'altra cosa. Dice un noto studioso italiano dell'anarchismo, che è Gian Pietro Berti, anzi il più noto di tutti, definisce l'anarchismo un'idea esagerata di libertà. Non ha nulla a che fare l'anarchismo con degli atti individuali di cui stiamo seguendo in questo momento. È molto chiaro, ragazzo professore, la sigla ci porta via, ma il fatto che la partita non sia chiusa lo dimostra un sms che scrive Nicoletti: creda Babbo Natale, Bresci non si è piccato in carcere, è stato assassinato a bastonate in cella da una squadra di agenti. Come vedete, anche le cose risalgono a secoli fa, non hanno mai certezza quando si tratta di anarchici. A domani.